Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Frey e Olga. Ben ritrovate con Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio che in questa settimana vi guida alla scoperta di uno degli appuntamenti di storia che ci saranno nel nostro territorio. Andremo a parlare del festival che si terrà a Forlì, 900 Fest, dal 24 al 27 ottobre. Un festival molto interessante che viene organizzato dalla Fondazione Alfred Lewin, una fondazione per l'appunto della città di Forlì, legata al sito online della Biblioteca Gino Bianco, che si occupa di un po' di questioni di storia del Novecento, di storia dell'antifascismo. Trova un sito che va a consultare, perché ci sono delle bellissime pubblicazioni, delle riproduzioni digitali di molte riviste di socialismo libertario, tutte in formato PDF, liberamente consultabili. Fondazione Alfred Lewin, Biblioteca Gino Bianco e Rivista Una Città, una rivista che c'è da la metà degli anni 90 più o meno, non vorrei sbagliarmi, una rivista che si chiama Una Città, una bellissima rivista in cui assieme a una bella impaginazione grafica vengono riproposte parecchie voci interessanti del dibattito a sinistra, del dibattito storico, del dibattito culturale, una bella rivista. Queste realtà danno vita a questo festival 900 Fest, di cui ci parlerà fra poco Barbara Bertoncini, una delle animatrici. Sì, 900 Fest è arrivato ormai alla sua quinta edizione e quest'anno ha come parole chiave antisemitismo, razzismo, xenofobia, crisi della cittadinanza e cosmopolitismo. Negli anni passati il 900 Fest ha sempre cercato di entrare in tematiche storiche, sempre legate alla conoscenza e alla memoria del Novecento, prendendo lo spunto molto valido di prendere la strada del racconto delle minoranze o dei percorsi marginali che sono usciti dalla contrapposizione a blocchi e che spesso sono passate sotto silenzio. Il programma di quest'anno è ricco, è disponibile sul sito 900fest.com, sia con il programma appunto, sia con le indicazioni dei luoghi del convegno che sono praticamente dislocati in tutta l'area della città di Forlì. Ai nostri microfoni abbiamo Barbara Bertoncin, organizzatrice e animatrice 900 Fest, e vi facciamo un'intervista, solo dopo però esserci ascoltati un po' di musica. The way over, the way out, the bridge, the way over, the way over, the way out, the bridge. I'm in the jungle, going through the bushes, stepping over rocks, passing by the animals, resting against trees in search of the bridge that will take me to the other side. I was told there was a bridge made out of wood and rope. They say it is safe, strong enough to withstand my weight. Leads to the other side, a place unlike this place, a place of peace and promise, of calm tides and bright sun, where people greet each other with a smile, where children can play without being hit by Ciao Barbara, ben trovata. Ci puoi raccontare che cos'è 900 Feste e qual è il percorso che ha compiuto in questi anni a partire dalla prima edizione del 2013? Sì, allora l'idea di dare vita a Forlì a un festival dedicato alla riflessione storica sui totalitarismi, le dittature, la democrazia nel Novecento è nata appunto nel 2013 all'indomani di un'assemblea cittadina intitolata Forlì non è la città del Duce. E la preoccupazione che aveva mosso tante associazioni della città, tra cui anche la Fondazione Levin, l'Istituto Storico, l'AMPI, i sindacati, era che in questo territorio in qualche modo si volesse mettere a frutto il fatto di aver dato i natali a Mussolini, e di lì insomma un po' l'idea di continuare una riflessione con un festival di storia che cercasse di dare un piccolo contributo al superamento del ritardo, se non della vera e propria rimozione del passato totalitario italiano. E abbiamo voluto pensare a un festival rivolto soprattutto ai giovani, agli insegnanti, alla conoscenza della storia e della memoria, e quindi è nata così la prima edizione. Poi nel corso degli anni abbiamo affrontato vari temi, dalla Grande Guerra alle origini dei totalitarismi, alle donne nei totalitarismi, le colpe e la storia. E lo scorso anno è stata attorno alla rivoluzione russa e al binomio libertà e uguaglianza. Ecco, ti volevo chiedere una cosa, che cosa vuol dire fare storia, fare memoria in un territorio come quello romagnolo, quindi in cui si gioca per l'appunto anche questa memoria molto conflittuale del fascismo? Ma una domanda molto difficile e forse anche insomma troppo ambiziosa per le nostre possibilità. E noi con questo festival, insomma, anche nelle varie appuntamenti abbiamo sempre cercato di guardare al passato per approfondire le questioni, ma anche sempre un po' con un occhio al presente, ecco, quindi diciamo che un po' in tutte le edizioni abbiamo cercato di interrogarci su concetti che riguardano poi in realtà la nostra vita quotidiana, insomma, perché il tema della colpa, della libertà e dell'uguaglianza, quest'anno il tema del razzismo, della xenofobia, della crisi della cittadinanza, insomma sono un po' tutte questioni che riguardano un po' la vita di tutti noi. Ecco, diciamo che il festival si è sempre voluto rivolgere anche ai cittadini in primo luogo, insomma, più che agli storici. A proposito di questo, ci racconti di che parla questo festival 2018, questa edizione 2018? Sì, quest'anno nell'80° del varo delle leggi razziali fasciste abbiamo voluto dedicare appunto la prima parte del festival all'approfondimento di questa vicenda, quindi apriremo con una sessione intitolata La Grande Colpa, che è quella italiana. E apriremo con Alessandro Paino, che è presidente emerito del Consiglio di Stato, che ci parlerà della legalità delle leggi razziali e quindi entrerà un po' nel merito di come sia dipanata anche proprio l'organizzazione, l'attuazione, l'implementazione delle leggi, anche cercando di raccontarci come hanno reagito per esempio i giudici, se appunto la giurisdizione ha in qualche modo manifestato forme di autonomia. E Tullia Catalan ci parlerà insomma invece più proprio della promulgazione delle leggi antiebraiche, e Anna Foa, nel ricordo del padre, ci racconterà tra le altre cose anche la questione dell'amnesia collettiva che sembrò colpire gli italiani all'indomani della caduta del regime. Come vi piacerebbe che crescesse questo appuntamento, questo 900 Festa? Come ve lo immaginate? Ancora più grande? Sì, beh, intanto è il secondo anno che facciamo un crowdfunding e devo dire che per il secondo anno siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati, che insomma non era grandissimo, 5.000 euro, però per noi è un contributo importante perché è un festival comunque molto austero nei mezzi e che si basa molto sul volontariato. E questo ci ha fatto piacere perché comunque è una delle nostre ambizioni di farlo sentire anche un po' un festival della città, ecco, che anche i forlivesi o gli amici che vengono anche da più parti in d'Italia, specie insegnanti che ormai si sono affezionati, lo sentano un po' loro. Ci piacerebbe sicuramente coinvolgere di più i giovani, ecco, che però non è facilissimo. Ora con l'università abbiamo iniziato una qualche forma di collaborazione, ma è ancora allo stato embrionale. Understand what black is, the source from which all things come, the security blanket for the stars. Understand what black is. It's not a color, it's the basis of all colors. It is not a complexion, it is a reflection of all complexions called human. And out of this blackness, passion flows like a river. Feelings tell the truth. Song and dance and making you laugh are family members. Understand what black is. The breath you breathe, the sweat on your brow, the cheers and the tears balancing the world on your head. Faith is the glue that holds us all together. This is your blackness, not some horror story of lost souls drifting into the land of perversion. Black as love is a light shining on a path leading to the sun, or caressed in the bosom of the moon. Understand what black is. Power you must yield to. A force so strong, we try to sweep it away. They say you must be electric and plugged in to the sockets of the world. Black is humanity. Understand what black is. Understand black. Bene, dopo aver sentito Barbara Bertoncin, una delle organizzatrici del 900 Fest, andiamo a sentire uno dei relatori del convegno, una delle voci che potrete sentire andando a Forlì dal 24 al 27 ottobre per 900 Fest, che è Alberto Cavaglione, uno storico che entrerà in uno dei temi caldi di questo appuntamento, che ricordiamo è legato all'80° anniversario delle leggi razziali. E un argomento su cui noi eravamo già entrati qualche mese fa, se ricordate, dialogando con Elisa Pievani dell'Istituto della Resistenza dell'Età Contemporanea di Bergamo, che aveva curato una mostra per l'appunto su questo 80° anniversario delle leggi razziali. Adesso sentiamo cosa ci dice Alberto Cavaglione, a cui diamo il nostro benvenuto ai microfoni di Radio Città Fugico. Alberto Cavaglion, che cosa sono state le leggi razziali italiane e che cosa è stato l'antisemitismo italiano? Le leggi razziali in Italia sono state l'apparire sulla scena politica di un fenomeno antico, di un ritorno, non un'apparizione del nuovo, anche se in forma più violenta, era la riapparizione dalle viscere della storia, anche della storia d'Italia, di un problema antico. gli ebrei in Italia erano diventati liberi soltanto 90 anni prima, meno di un secolo prima delle leggi razziali. Prima del 1848, con lo statuto di Carlo Alberto, gli ebrei in Italia vivevano chiusi nei ghetti e contro di loro si ascoltavano e si leggevano cose non diverse e non meno cruente di quelle che si leggeranno a partire dall'autunno del 1938. Quindi vanno studiate le leggi razziali tolte dal gorgo luciferino del periodo 38-43, ma vanno inserite nella lunga storia dell'antisemitismo in Europa e in particolare in Italia, dove il razzismo e l'antisemitismo aveva radici antiche naturalmente, ma nella società liberale tra 8 e 900 era stato combattuto dagli ebrei stessi naturalmente per via politica dopo l'acquisizione dei diritti. E quindi il problema è cercare di uscire. Purtroppo oggi l'attenzione dei media, non solo degli storici, è tutta focalizzata sul quinquennio 38-43, come se fosse l'apparizione sulla scena di qualche cosa che non si era mai visto prima, non si era mai visto prima in quelle dimensioni, con una legge dello Stato, con delle leggi discriminatorie, ma il fenomeno era molto antico, aveva radici molto lontane. E qual è lo stato del dibattito oggi all'interno del mondo della ricerca, soprattutto sull'antisemitismo italiano? Il dibattito oggi è diventato vivacissimo, ma soltanto negli ultimi anni. Io ho anni abbastanza per ricordarmi che si è incominciato a studiare le leggi razziali soltanto a partire dalla fine degli anni Ottanta. Chi ha fatto come me l'università negli anni 70 ricorderà un vuoto assoluto, un'assenza. Oggi impensabile, oggi c'è magari un eccesso di memoria. Ma veniamo da un periodo, anni 60 e anni 70, in cui le responsabilità del re, per esempio, che oggi sono quelle che tutti sanno di aver firmato i decreti sulla razza, e in questi giorni, queste settimane, si è fatto anche a San Rossore una serie di celebrazioni, ma negli anni in cui io ero giovane studente universitario, il re veniva inchiodato ad altre responsabilità, la fuga precipitosa da Roma, il consenso dato al regime, a Mussolini fino all'ultimo, e non questo, che invece è un problema che la storiografia e anche l'opinione pubblica italiana ha cominciato a studiare sul fine degli anni Ottanta e poi nei decenni successivi. Oggi il dibattito è vivacissimo. Ci sono scuole di pensiero diverse, vi è chi sostiene che l'antisemitismo fascista vada retrodatato ai primi anni in cui Mussolini prese il potere, vi sono altri storici che sostengono che invece l'accelerazione avvenne dopo la guerra d'Etiopia, soprattutto mano a mano che la politica estera del Duce si avvicinava a quella tedesca. E quindi si è animato un dibattito intensissimo, sono usciti molti studi che hanno superato quello che negli anni 60 era l'unico monumento della storiografia, cioè il volume di De Felice. Oggi disponiamo di almeno 4-5 sintesi, tra loro anche contrapposte, che propongono tesi diverse, ma è un fenomeno molto, molto recente. Bene, ringraziamo ancora Alberto Cavaglione per essere stato ai nostri microfoni, ringraziamo Barbara Bertoncin per averci raccontato 900 Fest, un appuntamento che noi vi ricordiamo è in corso dal 24 al 27 di ottobre a Forlì. Tutte le informazioni le trovate su 900 Fest e in più altri appuntamenti che invece si svolgono a Bologna. Esatto, è ancora in corso ed è fino al 10 novembre la mostra 68 l'anno degli studenti. È una mostra della Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna, che potete vedere alla Fondazione del Monte, che è in via delle Donzelle 2. Laterale a questa mostra ci sono delle conferenze. Vi segnaliamo l'ultima conferenza, cioè quella che andrà il 25 ottobre, che con Angela Vettese parlerà delle arti del 68. Ultima segnalazione è c'è ancora al Centro di Documentazione delle Donne la mostra Alza il Triangolo al Cielo sul femminismo, sul 68 e il femminismo. Bene, per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata a tutte e tutti da Frey e Olga. Ciao! Many bullets. Can't you see? You can't kill me. Can't you see? You can't kill what you can't see. You can't. Oh, how you tried to blow my brains out with bigotry. Chopped off my wings so I couldn't fly free, and dared me to be me. Took my drum, broke my hands, yanked my roots up right out of the land, and riddled my soul with Jesus. You killed the mind with dreams and the heart with desires. You called America, called New York, called California, called Mississippi or the West. You with your red, white, and blue dress, long, straggly beard, pop belly and soggy eyes, pulling rabbits out of your top hat, and rats with welfare checks between their long yellow fangs play in your hair, and your disease is spreading everywhere. But you can't kill me. You can't shoot what you can't see. You thought you shot Malcolm, but all you did was multiply his power. You thought you shot Martin, and black folks got stronger by the hour. You thought you blew away four little girls in Birmingham. The sweet spirit of a lamb cannot die or be denied of life eternally. And we shall live through all the barrages of madness that try to shoot us down in full living color. We will live for Clifford, for Mark, for Fred, Otis, Zay, Arthur, Mrs. King, for George and Jonathan, and all the brothers and sisters who were sacrificed for the price of our freedom and love for living and dancing on clouds, sipping sun rays through a straw. We live in awe of ourselves. You can't kill me. You can't kill me. And riddled my soul.